Capitolo 22. La signorina Cornelia sistema le cose. Gilbert insistette perché Susan restasse nella casetta per l'estate. Dapprima Anna si oppose. Oh, Gilbert, stiamo così bene qui, tu ed io da soli. Non è la stessa cosa con un'altra persona in casa. Oh, Susan è un tesoro, ma non è della famiglia. Posso farcela senza aiuto? Devi seguire i consigli del tuo medico, disse Gilbert. C'è un vecchio proverbio secondo cui le mogli dei calzolai vanno scalze e le mogli dei dottori muoiono giovani. Non intendo che sia vero in casa mia, eh? Terremo Susan finché il tuo passo non sarà di nuovo scattante e le tue guance non saranno di nuovo piene. Lei se la prenda comoda, dottora cara, disse Susan entrando senza preavviso. Si diverta e non si preoccupi della dispensa. Susan bada a tutto. È inutile tenere il cane e poi mettersi ad abbaiare. Le porterò la colazione di sopra tutte le mattine. Oh, certo che no, disse Anna ridendo. Sono d'accordo con la signorina Cornelia che lo scandalo di una donna in salute che fa colazione a letto può giustificare qualsiasi reazione esagerata da parte del marito. Oh, Cornelia, disse Susan con aria di disprezzo, non sarà tanto sciocca, cara dottora, da dare ascolto a quel che dice Cornelia Bryant. Non capisco perché deve sempre parlare male degli uomini, anche se è zitella. Solo una zitella pure io, ma non mi sentirà mai bistrattare gli uomini. Mi piacciono. E mi sarei sposata se avessi potuto. È strano che nessuna mi abbia mai chiesta in moglie, vero, dottora cara? Non sono una bellezza, ma non sono peggio di tante donne sposate. Eppure nessuno mi ha mai fatto la corte. Secondo lei qual è il motivo? Sarà predestinazione, azzardò Anna con solennità sacerdotale. Susan annuì. L'ho pensato spesso anch'io, dottora cara, ed è una grande consolazione. Non mi importa che nessuno mi chieda se il Padre Eterno ha stabilito così nel suo disegno divino. Ma a volte mi sorge il dubbio che c'entri invece il disegno del diavolo. E allora non mi do pace. Ma forse, aggiunse Susan, illuminandosi, non è ancora detta l'ultima parola. Penso sempre alla filastrocca che mi ripeteva mia zia. Gira e rigira, per bigia che un'oca sia, trova sempre il papero che se la porta via. Una donna ha tempo di sposarsi finché non è sottoterra, dottora cara. E ora farò un'infornata di crostatine di ciliegia. Noto che il dottore le gradisce e a me piace un mondo cucinare per un uomo che apprezza il cibo. Quel pomeriggio capitò la signorina Cornelia un po' affannata. Non mi do pena del mondo e del diavolo, ma questo mio corpo qualche pena me la dà, ammise. Tu sei sempre fresca come una rosa, Anna cara. E odore di crostata di ciliegia, quello che sento? Allora devi invitarmi per il tè. Quest'estate non ho ancora assaggiato una sola crostata di ciliegie. Le mie ciliegie me le hanno rubate tutte quei bricconi dei ragazzi Gilman di Glen. Via, via, Cornelia, obiettò il capitano Jim, che stava leggendo un romanzo marinaresco in un angolo del salotto. Non dovresti parlare così di quei due poveri bambini senza mamma, a meno che tu non abbia una prova certa. È ingiusto chiamarli ladri solo perché il padre non è granché onesto. È più probabile che le ciliegie le abbiano beccate i petti rossi. C'è un'invasione quest'anno. Petti rossi, disse la signorina Cornelia in tono sprezzante. Già, petti rossi a due zampe. Beh, i petti rossi di Four Winds per lo più hanno questa conformazione, disse il capitano Jim in tono serio. La signorina Cornelia lo guardò un attimo con gli occhi sgranati, poi si appoggiò allo schienale della sedia a dondolo e si lasciò andare a una schietta risata. Beh, mi hai battuto, Jim Boyd, lo ammetto. Anna, guarda com'è soddisfatto e gongolante. Quanto alle zampe dei peti rossi, se sono grandi, grosse, lisce, abbronzate e malamente coperte da pantaloni cenciosi come quelle che ho visto sul mio ciliegio all'alba di un giorno della settimana scorsa, allora sono pronta a chiedere scusa ai ragazzi Gilman. Quando scesi da basso non c'erano già più. Subito non capii come avevano fatto a sparire così in fretta, ma il capitano Jim ora ha chiarito il mistero. Naturalmente sono volati via. Il capitano Jim rise e si congedò, declinando a malincuore l'invito a restare a cena e assaggiare le crostatine di ciliegia. Tra poco andrò da Leslie per chiederle se vuole un pensionante, riprese la signorina Cornelia. Ieri ho ricevuto una lettera da una certa signora Daly di Toronto, che 2 anni fa è stata qualche tempo a pensione da me. Mi chiede di prendere a pensione un suo amico per l'estate. Si chiama Owen Ford. È un giornalista e, a quanto sembra, è nipote del maestro che costruì questa casa. La figlia maggiore di John Silwin sposò un certo Ford dell'Ontario e questo è suo figlio. Vuole vedere la casa dei nonni. Si è ammalato seriamente di tifo durante la primavera e non è ancora guarito completamente, perciò il dottore gli ha ordinato l'aria di mare. Non vuole andare all'albergo, ma vuole un posto tranquillo. Io non posso ospitarlo perché ad agosto sarò via. Sono stata nominata delegata di un raduno femminile del WFMS che si terrà a Kingsport e intendo andarci. Non so se Leslie vorrà questa seccatura, ma non c'è nessun altro a cui chiederlo. Se non può ospitarlo lei, allora dovrà andare dall'altra parte della baia. Al ritorno, venga ad aiutarci a mangiare le crostatine di ciliegia, disse Anna. Porti anche Leslie e Dick se possono venire, così andrà a Kingsport. Vedrà che le piacerà molto. Le darò una lettera per una mia amica, la signora Jonas Blake. Ho convinto la signora Thomas Holt a venire con me, disse la signorina Cornelia con soddisfazione. È ora che si prenda una vacanza, credi a me. Si ammazza dal lavoro. Tom Holt fa dei lavori all'uncinetto che sono una meraviglia, ma di mandare avanti la famiglia non è capace. Non si alza mai abbastanza presto per concludere qualcosa, ma per andare a pescare sì, che riesce ad alzarsi presto. Tipico degli uomini. Anna sorrise. Aveva imparato a fare la tara sui giudizi che la signorina Cornelia dava degli uomini di Four Winds. Ad arretta lei, li avrebbe creduti la peggior congerie di individui malvagi e inetti, con mogli schiave e martiri. Nella fattispecie sapeva che Tom Holt era un buon marito, un padre amato e un ottimo vicino. Se poi era piuttosto incline alla pigrizia e preferiva la pesca, che era la sua passione, all'agricoltura, che non lo era, e aveva l'innocua stranezza di dedicarsi ai pizzi, nessuno, tranne la signorina Cornelia, pensava a criticarlo per questo. La moglie era una sgobbona, fiera di essere tale. La famiglia viveva discretamente con i proventi della fattoria e i figli e le figlie, pieni di salute ed eredi dello spirito energico della madre, erano destinati a farsi onore nel mondo. A Glen St. Mary non c'era famiglia più felice degli Holt. La signorina Cornelia ritornò soddisfatta dalla casa sulla sponda del ruscello. Leslie lo prenderà a pensione, annunciò. Ha colto al volo l'occasione. Vuol mettere da parte il denaro per rifare il tetto della casa in primavera e non sapeva come fare. Credo che il capitano Jim sarà entusiasta quando saprà che viene qui uno dei nipoti di Selwyn. Leslie ha detto di dirti che muore dalla voglia di assaggiare la crostata di ciliegia, ma non può venire perché deve andare a recuperare i tacchini. Sono andati a cacciarsi chissà dove. Però ha detto che se ne avanza puoi mettergliela da parte e farà un salto qui tra il lusco e il brusco quando avrà sistemato la faccenda. Non sai, cara Anna, il piacere che mi ha fatto sentire Leslie parlare così e ridere come tanto tempo fa. Ultimamente c'è stato un grande cambiamento in lei. Ride e scherza come una ragazzina e da quel che sento mi pare di capire che viene qui molto spesso. Ogni giorno. Oppure vado io da lei, disse Anna. Non so cosa farei senza Leslie, specialmente ora che Gilbert è tanto occupato. Non è quasi mai a casa e rientra alle ore piccole. Si sta ammazzando di lavoro. Ora lo chiama tanta gente dall'altra parte della baia. Dovrebbero accontentarsi del loro dottore, disse la signorina Cornelia. Però non me la sento di criticarli, dato che è metodista. Da quando il dottor Blythe ha salvato la vita alla signora Allonby, la gente crede che sappia resuscitare i morti. Il dottor Dave deve essere un po' invidioso, come tutti gli uomini. Secondo lui, il dottor Blythe ha idee troppo moderne. Beh, gli ho detto, è stata un'idea moderna a salvare Rhoda Allonby. Se ci fosse stato lei ad assisterla, sarebbe morta, e ora una bella lapide direbbe che Dio l'ha voluta con sé. Oh, non ci metto né due né tre a dire quel che penso al dottor Dave. Per anni a Glen ha fatto il buono e il cattivo tempo e crede di saperne di più degli altri, anche ora che non è più giovane. A proposito di dottori, vorrei che il dottor Blythe facesse un salto a vedere quel foruncolo che Dick Moore ha sul collo. Leslie non sa più cosa farci. Ci mancava soltanto che Dick Moore si facesse venire i foruncoli, come se non fosse già un peso così. Sa che Dick Moore mi ha preso in simpatia? disse Anna. Mi segue come un cagnolino e quando gli presto attenzione sorride, contento come un bambino. Ti fa venire la pelle d'oca? Niente affatto. Ho simpatia per Dick Moore, poveretto. La sua disgrazia gli dà un certo fascino. Oh, non credo che lo troveresti affascinante se lo vedessi nei giorni di luna storta, credi a me. Ma mi fa piacere che tu non abbia niente contro di lui, tanto di guadagnato per Leslie. Avrà più da fare quando ci sarà il pensionante. Spero che sia una persona come si deve. Probabilmente lo troverai di tuo gusto, uno scrittore. Chissà perché la gente è portata a credere in uno straordinario affiatamento tra persone che scrivono, disse Anna in tono polemico. Nessuno si aspetta che due fabbri si amino follemente solo perché sono fabbri. Tuttavia attendeva con interesse e curiosità l'arrivo di Owen Ford. Se era giovane e simpatico, poteva risultare un acquisto positivo per la sua cerchia di amici. La porta della casetta era sempre aperta per chi apparteneva alla razza di Giuseppe. Capitolo 23. Arriva Owen Ford. Una sera la signorina Cornelia telefonò ad Anna. È appena arrivato qui lo scrittore. Lo accompagno da te e tu puoi indicargli come raggiungere la casa di Leslie. Il tragitto è più breve rispetto alla strada maestra ed io ho una fretta terribile. A Glenny, il bambinetto dei Reese, è caduto in una tinozza d'acqua bollente e ha rischiato di morire ustionato. Mi vogliono subito laggiù, forse per fargli la pelle nuova. La signora Reese è una gran sbadata, combina un sacco di guai e poi si aspetta che gli altri vi pongano rimedio. Non ti dispiace, vero cara? Il baule glielo farò portare domani. Benissimo, disse Anna. Com'è, signorina Cornelia? Com'è esternamente lo vedrai tra poco. Com'è interiormente lo sa Dio che l'ha creato. Non dico altro perché lungo la linea tutti sono in ascolto. Evidentemente la signorina Cornelia non trova niente da ridire sull'aspetto del signor Ford, altrimenti non si farebbe intimidire da orecchie indiscrete, disse Anna. Quindi, Susan, devo concludere che il signor Ford è piuttosto bello. Beh, dottora cara, un uomo di bell'aspetto è una festa per gli occhi, disse Susan candidamente. Non sarà meglio che gli prepari uno spuntino? C'è una torta di fragole che si scioglie in bocca. Oh no, Leslie lo sta aspettando e ha la cena pronta. E poi quella torta di fragole voglio serbarla per il mio povero marito. Tornerà a casa tardi, perciò lasciala fuori la torta. E un bicchiere di latte. Certamente, dottora cara, Susan bada a tutto. E in fondo è meglio dare la torta all'uomo di casa che a un estraneo pronto magari a rimpinzarsi. Quanto al bell'aspetto, poi il dottore non ha niente da invidiare a nessuno. Quando Owen Ford arrivò e venne introdotto in casa dalla signorina Cornelia, Anna ammise tra sé e sé che era davvero di bell'aspetto. Aveva una notevole statura, spalle larghe, folti capelli castani, naso e mento ben conformati, grandi e luminosi occhi grigio scuro. E ha notato le orecchie e i denti, dottora cara? Le chiese Susan più tardi. Ha orecchie bellissime, come non ho mai visto addosso a un uomo. Io sono difficile per le orecchie. Da giovane avevo paura di dover sposare un uomo con le orecchie a sventola. Era meglio che non mi preoccupassi perché scelta di orecchie non ne ho dovuta fare. Anna non aveva notato le orecchie di Owen Ford, ma aveva visto i denti quando le labbra si erano schiuse a un sorriso aperto e cordiale. Normalmente il suo volto appariva triste e assente, accomunandolo all'eroe malinconico e imperscrutabile dei sogni giovanili di Anna, ma si animava di allegria e simpatia quando sorrideva. Certamente, come aveva detto la signorina Cornelia, esternamente Owen Ford era una persona più che presentabile. Oh, lei non può immaginare quanto sono felice di essere qui, signora Blythe, disse guardandosi attorno con vivo interesse. Ho la strana sensazione di essere tornato a casa. Sa, mia madre nacque qui e vi passò l'infanzia. Mi parlava molto della sua vecchia casa. Ne conosco ogni angolo come conosco la casa in cui ho vissuto. Naturalmente la mamma mi ha raccontato la storia della costruzione della casa e dell'angosciosa attesa di mio nonno, marinaio della Royal William. Pensavo che una casa tanto vecchia fosse sparita da anni, altrimenti sarei venuto prima a vederla. Le vecchie case non spariscono facilmente su questa costa incantata, disse Anna con un sorriso. Questa è una terra dove le cose sembrano sempre uguali, quasi sempre comunque. La casa casa di John Silwyn non è cambiata molto e in giardino ora fioriscono i cespugli di rose piantati da suo nonno per sua nonna. Oh, questo pensiero me le rende tanto care. Con il suo permesso verrò presto a esplorare casa e giardino. Troverà sempre la porta aperta, disse Anna. Sa che il guardiano del faro di Four Winds, un vecchio capitano di mare, da giovane ha conosciuto bene John Silwyn e la moglie. Mi ha raccontato la loro storia la sera in cui sono arrivata qui, dopo le nozze. Io sono la terza sposa in questa vecchia casa. Non mi dica! È una vera sorpresa! Devo andare a stanarlo. Oh, non sarà difficile. Siamo tutti grandi amici del capitano Jim. Sarà ansioso anche lui di vederla. Sua nonna brilla come una stella tra i ricordi del capitano Jim. Ma credo che la signora Moore stia aspettandola. Le mostrerò la nostra scorciatoia campestre. Anna lo accompagnò alla casa vicina al ruscello attraverso un campo che la fioritura di margherite faceva sembrare innevato. In lontananza dei barcaioli cantavano. Il suono viaggiava sulle acque della baia come una musica tenue e irreale, trasportato dal vento sul mare illuminato dalle stelle. Il grande faro indicava la via con il suo fascio di luce. Owen Ford si guardò attorno con soddisfazione. «E così questo è Four Winds», disse. «Non mi aspettavo che fosse tanto bello, nonostante la mamma ne abbia sempre cantato le lodi. Che colori, che paesaggio, che incanto! Diventerò forte come un cavallo in 4 e 4/8, e se è vero che l'ispirazione è figlia della bellezza, dovrei poter incominciare qui il mio grande romanzo canadese». «Non l'ha ancora incominciato?» chiese Anna. «Ahimè, no, non riesco ad afferrare l'idea giusta. Mi balugina davanti, mi alletta, mi invita e poi scompare. Mi sembra quasi di averla in pugno e subito dopo si volatilizza. Forse circondato da tanta pace e da tanta bellezza riuscirò a impadronirmene. La signorina Bryant mi ha detto che lei scrive. Oh, faccio delle cosette per bambini. Non ho fatto granché da quando sono sposata e non ho progetti di un grande romanzo canadese comunque, disse Anna ridendo, è al di fuori della mia portata. Anche Owen Ford rise, probabilmente anche della mia. Però voglio tentare un giorno o l'altro se riuscirò a trovare il tempo. Raramente un giornalista ha l'opportunità di fare certe cose. Ho scritto molti racconti per riviste, ma non ho mai avuto la tranquillità che mi sembra necessaria per scrivere un libro. Avendo 3 mesi di libertà, dovrei poter incominciare, se solo potessi però trovare il motivo conduttore, l'anima del libro. Un'idea attraversò fulminea la mente di Anna, facendola sobbalzare, ma non disse nulla perché avevano raggiunto la casa dei Moore. Quando si avviarono nel cortile, Leslie uscì sulla veranda dalla porta laterale, scrutando nell'oscurità in attesa dell'ospite. Si stagliava nel vano della porta, illuminato da una calda luce gialla. Indossava un semplice abito color panna di voile di cotone di poco prezzo con una cintura naturalmente rossa. A Leslie non mancava mai un tocco di rosso nel suo abbigliamento. Aveva detto ad Anna che non si sentiva a suo agio senza un'idea di rosso addosso, si trattasse pure solo di un fiore. Ad Anna sembrava il simbolo della personalità chiusa e ardente di Leslie, a cui era dato esprimersi solo in quel luccichio di fiamma. L'abito di Leslie era leggermente scollato e aveva le maniche corte. Le sue braccia avevano la luminosità di un marmo antico. Le sue forme perfette, delineate dalla luce, risaltavano nell'oscurità. I capelli risplendevano come fiamma. Alle sue spalle, in lontananza, il cielo turchino andava accendendosi di stelle sopra la baia. Anna si accorse che l'ospite era rimasto senza fiato. Anche al buio scorse sorpresa e ammirazione sul suo volto. «Chi è quella bella creatura?» chiese. «È la signora Moore», disse Anna. «È incantevole, vero?» «Non ho mai visto niente di simile», rispose intontito. «Non ero preparato, non mi aspettavo. Santo cielo, come ci si può aspettare una dea per padrona di casa? Diamine, se indossasse un manto turchino e un filo di ametiste tra i capelli, sarebbe un'emanazione della regina del mare e prende gente a pensione?» «Anche le dee devono vivere», disse Anna. «E Leslie non è una dea, è solo una bellissima donna, umana, come tutti noi. La signorina Bryant le ha parlato del signor Moore? Sì, è deficiente o qualcosa del genere, vero? Ma non mi ha mai parlato della signora Moore e me la figuravo come la solita energica massaia di campagna che prende dei pensionanti per guadagnarci onestamente qualcosa. Beh, è proprio quel che fa Leslie, disse Anna seccamente. E nemmeno volentieri. Spero che non le dispiaccia la presenza di Dick. Se anche fosse, non lo dia vedere a Leslie, se ne avrebbe terribilmente a male. Non è che un bambinone, ma a volte è piuttosto fastidioso. Oh, non mi disturba affatto. E poi non credo che starò molto in casa, se non all'ora dei pasti. Ma che peccato. Deve fare una vitaccia, poveretta. Proprio così, ma non vuole essere compatita. Leslie era rientrata in casa e li accolse sulla porta d'ingresso. Salutò Owen Ford con fredda cortesia e gli disse in tono neutro che camera e cena erano pronte. Dick sorrise soddisfatto e si avviò strascicando i piedi su per le scale con la borsa dell'ospite. Così Owen Ford si installò nella vecchia casa tra i salici.